non si spara sui disertori, nati in borghi dimenticati, dove sfuggono le loro coscienze e dormono sotto le stelle. Qualche volta ridono quando non hanno paura. E adesso in fondo alle luci del viale la polizia spegne gli ultimi fuochi. Nelle notti al fosforo bianco in cui bruciamo le ambizioni migliori, per gli ipocriti che al mattino contano i caduti. Oltre il consumo che ci consuma gli occhi, oltre la pioggia che ci batte nel petto, finché cadremo come cade la neve, precipitando dolcemente contro vento, e cantando in silenzio torneremo alla terra. Non si spara sui nostri visi puliti, incastonati nel traffico di Roma, che cercano un poco di cielo tra le antenne fiorite sui prati, fino alla luce dell'alba che comunque verrà. Oltre il consumo che ci consuma gli occhi, oltre la pioggia che ci batte nel petto, finché cadremo come cade la neve, precipitando dolcemente contro vento, e cantando in silenzio torneremo alla terra. E a pochi passi dalla frontiera, con 100.000 chilometri sul cuore, ci infileremo nei letti di provincia come gli uccelli che cercano di emigrare, ma con ricordi leggeri fatti per non tornare. Oltre il consumo che ci consuma gli occhi, oltre la pioggia che ci batte nel petto, finché cadremo come cade la neve, precipitando dolcemente contro vento, e cantando in silenzio torneremo.